Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Questo è un libro che attraverso una scrittura molto naturale, ma devo dire che ha anche dei punti di grande liricità, riesce a raccontare una storia di emozioni, una storia profonda. È un romanzo che parla di assenza e di perdita, di come il vuoto che viene creato dalla perdita può influire e influenzare completamente la vita di una persona. Il romanzo di cui vi parlo si intitola Addio Fantasmi, l'ha scritto Nadia Terranova, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. La trama è relativamente importante in questo romanzo perché sono soprattutto le riflessioni della protagonista che costituiscono il cuore, il centro del romanzo, ma è importante dire di cosa stiamo parlando. La protagonista è Ida, una donna di 36 anni, per lavoro tra l'altro scrive storie per la radio e vive, diciamo, nell'ombra di un grande dolore. Quando aveva 13 anni suo padre, che aveva sofferto di depressione, è scomparso e quindi questa assenza, questa mancanza influenzerà tutta la sua vita. A 36 anni Ida torna da Roma nella sua casa a Messina perché la madre le dice: guarda, dobbiamo sostanzialmente ristrutturare casa, il tetto è pericolante, quindi torna. Nadia, questo dicevo all'inizio, è un romanzo soprattutto sull'assenza e sulla perdita. Come Ida vive questa mancanza? Mi interessava raccontare la crescita e lo sviluppo di questa ragazzina, poi donna, in assenza del corpo paterno, della sua presenza proprio anche fisica dentro casa. Però la morte non mi bastava, perché volevo che fosse qualcosa di più ossessivo, perché la morte può essere appunto un punto fermo, può essere qualcosa di cui ci si fa una ragione. C'è una tomba su cui portare dei fiori, c'è un funerale, ci sono dei riti e c'è un abbandono che per quanto lungo può essere metabolizzato. Invece no, volevo che questo padre fosse una presenza ingombrante, come a volte sono certi lutti, ma quello che letterariamente, metaforicamente meglio mi aiutava a raccontarlo era proprio la scomparsa, la sospensione indefinita nel tempo, un po' come i bambini di Ian McEwan, cioè quella idea di quella persona che rimane per sempre cristallizzata a quell'età. E allora volevo che Ida fosse una donna non soltanto privata del padre, ma con un padre sempre presente e sempre dappertutto, proprio perché è impossibile da seppellire. Infatti tu a un certo punto scrivi: la morte è un punto fermo, mentre la scomparsa è la mancanza di un punto, di qualsiasi segno di interpunzione alla fine delle parole. Chi scompare ridisegna il tempo e un circolo di ossessioni avvolge chi sopravvive. Ida è una donna che ha una serie di ossessioni. Sì, infatti il libro per me è ambientato nella sua mente. È vero che è ambientato a Messina, soprattutto perché è un libro del Nostos, del ritorno, tranne infatti la prima scena. Infatti per questo io dicevo, la trama è relativamente importante perché tutto avviene nella mente di Ida. Sì, almeno per tre quarti del libro, finché non... Per qualche motivo, per spezzare il sortileggio, non irrompono gli altri e allora l'incantesimo si spezza e lei prende coscienza del fatto che mentre dentro di lei avveniva tutto questo, mentre nei suoi 36 anni di vita questo dolore andava in scena, soprattutto negli ultimi 23 dal giorno della scomparsa del padre, il mondo intorno non si è fermato e tutti gli altri hanno avuto i loro lutti, i loro drammi, i loro problemi ed erano asserragliati dentro una guerra che, come gli altri non conoscevano, la sua lei non conosceva. Ecco, la morte, dicevi tu prima, è un punto fermo, quindi di fronte alla morte di una persona cara chiaramente c'è il dolore, c'è la sofferenza, ma si può in un certo senso cercare di superare quel dolore. Non sapere che fine ha fatto una persona è qualcosa che getta completamente nel panico e tra l'altro nel momento in cui scompare il padre, Ida ha solo 13 anni, è la persona che paradossalmente si occupa di suo padre perché la madre lavora e le dice: ok, ti affido tuo padre perché ha la depressione, non esce di casa, vuole stare sempre a letto, eccetera. In lei si sviluppano una serie di sensi di colpa profondissimi. Una frase apparentemente buttata lì, ma fai mangiare tuo padre perché mangia soltanto con te, diventa sulle spalle di una ragazzina alle soglie dell'adolescenza un problema enorme, perché se mio padre mangia soltanto con me vuol dire che se non mangia più è colpa mia, e quindi se lui è in qualche modo attaccato alla vita soltanto attraverso di me. Quando decide di staccarsi da questa vita, di andare via, vuol dire che sono io che l'ho lasciato andare, o peggio, che lui ha deciso di non voler stare più con me. Questo nell'onnipotenza di cui sono capaci i bambini, i ragazzini, ha un effetto deflagrante, perché non si argina più, il padre non torna più, e arginare questo pensiero diventa impossibile. E arriviamo al rapporto a questo punto fra Ida e la madre. Loro due, dopo la scomparsa del padre di Ida, sostanzialmente non parlano, e soprattutto il silenzio, e quando parlano c'è comunque l'ombra di questo padre scomparso. È tutto un dialogare intorno, mai un dialogare prendendo l'argomento, centrandolo, come avviene spesso quando abbiamo a che fare con una malattia in famiglia che a volte non riusciamo neanche a nominare, o con un dolore o con una vergogna. Poiché loro hanno vissuto questa scomparsa e la precedente malattia come una vergogna, loro non riescono neanche a pronunciarla. C'è un racconto di Nino Buzzati che si intitola La cosa che comincia per L, in cui la cosa che comincia per L è la lebbra, e non viene pronunciata per il terrore che anche soltanto dirla possa infettare. Questo era avvenuto con la depressione del padre, e avviene in seguito, autoalimentandosi e continuando a farlo, con la sua scomparsa, perché parlarne significherebbe dover fare i conti, ammettere e chiedersi continuamente chi siamo e chi siamo state, e per quale motivo lui ci ha abbandonato, e che cosa abbiamo sbagliato, e dove avremmo potuto fare meglio. C'è rabbia da parte di Ida nei confronti della vita, della scomparsa del padre, di sua madre anche? C'è una rabbia incandescente. Ida è un personaggio profondamente rabbioso, e con una rabbia che non rivolge in maniera aggressiva verso gli altri, che mimetizza molto bene con il garbo, perché sa che il garbo è il modo migliore per tenere a distanza le persone, l'ha imparato. E infatti tu dici che fai dire al tuo personaggio che innanzitutto è abituata a dissimulare la sua sofferenza e il suo dolore fin da piccola, e ormai lo trasforma nella buona educazione. Attraverso appunto il garbo lei fa in modo che gli altri non si accorgano del suo dolore, eppure lei ama, entra in sintonia solo con le persone che riescono a riconoscere questa sua voragine, come la definisci tu. Sì, è come, diventa come un gioco a eliminazione. Io mi pongo in una maniera cortese verso il mondo per tenerlo ferocemente a distanza, non soltanto perché mi potrebbe ferire la loro prossimità, ma mi può ferire anche la loro involontaria felicità. Se gli altri sono felici e mi sono felice accanto, come avviene con i vicini di casa, se gli altri mi sono felici vicino, io mi ricordo della mia infelicità, quindi che stiano lontani. Però se qualcuno, pur senza una mia parola, riesce a individuare dal mio sguardo, da come sono, che ho qualcosa dentro, allora quel qualcuno sarà speciale e può essere ammesso nella mia cerchia. Così vive Ida. Come per esempio è ammesso nella sua cerchia il marito, che ha questa capacità forse di proteggerla da tutto il resto del mondo. In questo romanzo ci sono delle frasi, secondo me, bellissime, perché Nadia Terranova ha una scrittura, come dicevamo prima, molto naturale, ma nello stesso tempo lirica. In poche righe, secondo me, riesce a esprimere una marea di emozioni. A un certo punto tu scrivi: «Io e mia madre non sapevamo come riparare il danno, e allora lo abitavamo. La sparizione di mio padre era diventata l'imbuto delle nostre colpe, la nevralgia delle scelte da scansare». Ci tengo a leggere appunto alcuni brani di questo libro, perché voglio dare l'idea agli ascoltatori di che cosa è questo romanzo. Ecco, questo è un romanzo che parla anche molto di corpo. Paradossalmente, sì. Perché c'è l'assenza di un corpo, non si sa che fine abbia fatto il corpo del padre, e però tu nello stesso tempo racconti come il corpo di Ida cambi durante l'adolescenza, come il corpo di qualsiasi ragazzina, ma lei anche in modo un po' arrabbiato dice: «Ecco, tu papà non sei qui a vedere i cambiamenti del mio corpo». Quindi in un romanzo che narra l'assenza, il corpo diventa protagonista. Anche perché le ossessioni hanno sempre a che fare con il corpo, tutto ciò che è profondamente psichico è profondamente corporeo, ed essendo lei così ossessionata da quello che avviene nella sua memoria, nei suoi ricordi, a volte anche ricostruiti, non poteva che tutto questo che passare anche attraverso una serie di sensazioni corporee, di sensazioni fisiche, perché chi diventa donna senza uno sguardo paterno ha per forza di cose un tipo di scoperta della femminilità, vorrei dire più brutale, o comunque diverso, più rivendicativo rispetto a chi invece si sente uno sguardo paterno, le spalle coperte. A proposito di nuovo del rapporto con la madre, rapporto piuttosto teso fra Ida e la madre, capì in quel momento cos'è davvero una madre, qualcosa da cui non esiste riparo. E poi poco più avanti: a mia madre avrei dovuto rispondere ciò che sapevo. Non voglio figli perché ho paura che muoiano, che scompaiano. Non ho figli perché passano attraverso il corpo, il luogo su cui posso esercitare ogni controllo, perfino convincermi che se è successo al corpo non è successo davvero. Questo "se è successo al corpo non è successo davvero", che sembra un paradosso, è un po' un mantra in realtà che Ida ripete nella sua testa. Perché? Lei si convince di poter esercitare una signoria assoluta su quello che avviene sulla macchina del corpo, e questo nel momento in cui appunto per esempio scopre la sessualità da adolescente, quindi è il momento di massimo in realtà piacere o abbandono del corpo. Lei invece si scinde, ha come una scissione, come se si guardasse dall'esterno durante la sua prima volta, come se si stesse usando, ma sta usando se stessa in realtà, e quindi lo dice, lo ripete, si convince, sa forse dentro di sé che non è un paradosso, che è un paradosso e che non è la verità, perché in fondo che cos'altro ci succede se non quello che succede al corpo? In questo romanzo c'è l'assenza appunto e la perdita del padre, ma c'è anche la perdita di un'amica, Sara. Sara non scompare, non muore, ma diciamo che cambia profondamente il rapporto fra Sara e Ida. Loro da bambine erano sempre insieme, poi succede qualcosa per cui si separano completamente mentalmente, oltre che fisicamente. Ecco, senza entrare nei dettagli della trama, possiamo dire che Sara rivendicherà nei confronti di Ida il fatto che Ida è stata egoista nel suo dolore, non ha voluto comprendere il dolore degli altri, compreso quello di Sara, che aveva un padre e una madre, però aveva anche i suoi dolori. Quando si soffre si è sempre egoisti. Molto. All'inizio il dolore è totalizzante, non concepisce che esista qualcun altro, non vuole essere diviso, i figli non vogliono dividere il loro dolore tra di loro per la perdita di un genitore, molto spesso anche tra fratelli, a volte anche tra madre e figlia. In questo libro c'è come una chiusura rispetto alla perdita dello stesso uomo, però in fondo Ida è come se fosse convinta, almeno fino a un certo punto, che la madre non ha sofferto quanto lei, una convinzione buffa, perché in realtà la madre è stata accanto al marito anche molto più tempo e ha vissuto di sicuro un dolore speculare. Però il dolore quando arriva, che è fisico, è molto corporeo, per tornare al corpo, anche il dolore mentale è lacerante. Ida a un certo punto dice: io portavo nel petto una piccola sfera arroventata, è così che fa il dolore quando ti squarcia, e in quel momento non c'è spazio per nessuno. Solo dopo si può tornare indietro, fare qualche passo di avvicinamento verso chi avevamo avuto accanto e cercare di capire anche le sue ragioni, e lì è bello rifondare se si riesce. Questo comunque è un grande romanzo di perdite, nel senso che e mi rendo conto che si perde tutto, si perde il desiderio, si perde l'amicizia, si perde un padre, si perde la casa forse, si perde un tetto che si sta sfaldando, non c'è qualcosa che non si perda in questo libro, dall'inizio fino quasi alla fine, credo. Grazie a Nadia Terranova per averci raccontato e spiegato anche qualcosa di più di questo romanzo che si intitola Addio Fantasmi, pubblicato da Einaudi nella collana Stile Libero Big. Grazie Nadia. Grazie mille. Ve l'ho detto, questo è un romanzo che ha una scrittura naturale ma nello stesso tempo anche poetica, ha una scrittura bellissima secondo me, e ha la capacità appunto attraverso questa naturalezza di raccontare dei dolori che veramente possono colpire tutti. È un romanzo che parla della mancanza, dell'assenza, ma in cui, come abbiamo detto, paradossalmente il corpo è protagonista. Ed è tutto, grazie a regia ad Andrea Roccabella. Vi ricordo che in questo periodo delle feste Il Cacciatore di Libri va in onda anche dal martedì al venerdì alle 13:45. Poi, come sempre, l'appuntamento è il sabato alle 6:30 per i mattinieri, alle 21:30 per tutti gli altri, e poi disponibile in podcast su radio24.it. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.